stare con lui, che non ti ha capita mai. Ti cerca quando fa comodo e poi si dimentica di te. Chissà se un giorno riuscirai a distinguere davvero chi per te darebbe la vita e chi invece vale zero. Sarà che ancora tu non hai l'età per affrontare i guai, ma stai tranquilla, crescerai e poi ti accorgerai. E quante cose capirai che non avresti pensato mai. Amicizie false di gente che mai avresti immaginato. Tu non sei più la stessa per colpa di alcune persone che ti hanno fatta soffrire. Non ti lasci andare. A lui, io spero che tu capirai quanto male ti fa. Sei così fragile tu, che si prende gioco di te. Se una persona ci tiene davvero, lo dimostra con l'amore. Quanti amici hai perso ormai per un amore impossibile? Stai tranquilla, troverai chi ti amerà davvero per ciò che sei. Non devi mai cambiare, no. Tu non sei più la stessa per colpa di alcune persone che ti hanno fatta soffrire. Non ti lasci andare. Lasci andare.